queste ore frenetiche dal punto di vista diplomatico abbiamo i due leader libici, Haftar e Sarraj, in viaggio verso Mosca per firmare una tregua. Il presidente del Consiglio Conte in viaggio verso la Turchia per incontrare Erdogan. Il ministro degli esteri Di Maio sulla strada della Tunisia. Un'Italia che pare voler recuperare terreno in Libia, non senza difficoltà. Difficoltà nelle quali si dibatte invece il regime iraniano dopo le proteste del fine settimana per l'aereo abbattuto, la polizia che spara, un Iran che a questo punto potrebbe provare a tornare al dialogo con l'Occidente e gli Stati Uniti, anche sul nucleare. Non me ne frega niente, ha twittato questa notte il presidente americano Trump. Siamo all'Italia, Conte apre il dossier economico e annuncia riforma di IRPEF e pensioni, il PD si riunisce in una specie di conclave in un'abbazia nel Reatino. E a proposito di conclave e di luoghi legati alla religione, nella chiesa la discussione sul celibato dei preti emersa dopo il sinodo sull'Amazzonia si riapre con un libro firmato dal Papa Emerito Benedetto XVI insieme a uno dei cardinali più conservatori, il guineiano Sarà, per aprirsi un problema notevole per il Papa in carica. Lo sport. La Juve è campione d'inverno, ne dubitava qualcuno? Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Spezia, basta, non sei mica l'unico ad alzarti alle 4, ad essere al lavoro alle 4 del mattino, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su. È lunedì e iniziamo sempre con lei, con la nostra amica. Lunedì 13 gennaio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, le 6:31 minuti e 30 secondi. Eccoci dunque con Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E con voi ovviamente vi aspetto al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche e soprattutto audio. Fate sentire la vostra voce per quanto assonnata possa essere a quest'ora. Siamo anche in diretta Facebook e lo sapete, ci trovate là, la pagina di 24 Mattino. Siamo su Instagram, su Twitter, ovunque. Oh, e c'è chi rinuncia invece, oggi c'è una paginata sulla stampa, scusate, l'intermezzo, che racconta un po' dei profili social dei leader anche europei. Angela Merkel ha chiuso il profilo Facebook e ha chiuso il profilo Twitter. Niente male. Forse potrebbe essere un'idea per ridurre un po' di rumore, da parte dei leader, da parte della politica. Oh, come vi dicevo, insomma, sono ancora i dossier esteri, quelli in primo piano. Nel fine settimana Sarraj è arrivato in Italia, ha incontrato Conte dopo le polemiche della settimana scorsa, l'invito ad Haftar, arrivato in Italia, il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, arrivato in Italia. E questo Sarraj che se la sarebbe presa male e poi avrebbe deciso di non venire. In realtà poi i retroscena sono mille. Guardate, dal punto di vista diplomatico, mai fermarsi alle prime notizie che arrivano, perché abbiamo appreso che Haftar in realtà è venuto perché doveva incontrare degli emissari americani e poi ovviamente ha incontrato anche il presidente del Consiglio Conte. Però insomma, come si diceva, Italia cerca di recuperare un po' il tempo perduto, che non è solamente quello di questo governo, evidentemente. Un'Italia preoccupata, dice il Presidente del Consiglio. A nome dell'Italia siamo estremamente preoccupati per l'escalation sul terreno libico. Gli ultimi sviluppi stanno rendendo il paese una polveriera dalle forti ripercussioni, temiamo, su tutta la regione mediterranea. Dobbiamo assolutamente fermare il conflitto interno e anche fermare le interferenze esterne. Un'Italia che, dice Conte, ha sempre lavorato per la pace, mentre continua a circolare questa ipotesi di Marco Minniti come possibile inviato per la Libia, appunto. Il quale dice l'Italia può tornare centrale. se poi questa voce è italiana, è una grande opportunità per l'Italia. L'Italia riprende il filo, attraverso questa opportunità può riprendere un'iniziativa. Grazie. Mi si consenta infine di citare il grande timoniere Mao Zedong. Mao Zedong diceva una cosa semplicissima: non è importante che il gatto sia bianco o nero, importante è che il gatto acchiappi topi. Minniti che cita Mao. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani. Ciao Angelo, buongiorno. Ciao caro, eccomi. Eccoci, Agnese Pini, direttrice della Nazione. Ciao Agnese, eccoci, buongiorno. Buongiorno. Allora iniziamo da Angelo, va. Questa citazione di Mao da parte di Minniti, come la vedi su questo dossier libico, Angelo? Ma con Minniti siamo al vintage, e lui è lì che si occupa di queste questioni da qualche decennio, dai tempi di D'Alema, era uno dei lotter dello staff di D'Alema a Palazzo Chigi, è un uomo d'altri tempi, non so, adesso è uscito il suo nome, però ho visto che Di Maio ha risposto con un certo gelo. Vediamo, credo che anche questa cosa finirà dentro la disputa di potere tra 5 Stelle e PD all'interno della maggioranza, mentre appunto la questione libica richiederebbe scelte meno partitiche, meno mediatiche e più serie e rigorose. Ci ho detto, il quadro si è messo in movimento, l'intervento di Putin potrebbe essere decisivo. Sì, Angelo, dal lato italiano, insomma, mi sembra un'Italia un po' che cerca una rincorsa un po' affannosa ad un treno che è già passato. Sì, certo, il Conte si parla della gaffe, ha voluto fare quello che ora sta facendo Putin, quindi insomma, certo... L'impresa era ardua, difficile, però perché non dovremmo provare ad assumere un ruolo chiave, visto che la questione libica ci riguarda da vicino per molti aspetti geografici, economici, visti gli interessi dell'ENI e anche dal punto di vista dell'immigrazione. Quindi pensiamo in grande, perché sono i nostri confini e il nostro futuro Mediterraneo. Agnese, mi pare dura recuperare terreno. Qualcosina si può fare per la nostra conoscenza del territorio, per i nostri rapporti storici, insomma, però insomma, come già si diceva la settimana scorsa, gli attori ormai sono altri e la testimonianza è un po' quella dei due che oggi non vanno in un altro luogo, vanno a Mosca. Ma sì, è dura proprio perché in realtà il ruolo politico e diplomatico dell'Italia in Libia è arretrato da troppo tempo, fino a tutto il governo PD. C'è stato un impegno massiccio e deciso del governo in quelle zone, quando anche altri attori internazionali non se ne disinteressavano, ma lo trovavano meno strategico. Per noi era strategico dal punto di vista soprattutto della gestione dei flussi migratori, e quindi il nostro intervento è stato sempre abbastanza forte, schierato in modo piuttosto deciso, tra l'altro con il presidente Sarraj. Dai tempi del governo giallo-verde, voglio dire, l'impegno dell'Italia invece è arretrato moltissimo, abbiamo lasciato molto terreno ad altri attori determinanti, appunto la Russia, come ricordavate voi, anche la Turchia. Quindi riposizionarsi nel momento in cui delle forze così importanti, così strategiche, si sono rubate la scena nella gestione dei rapporti diplomatici tra Haftar e Sarraj, diventa abbastanza impensabile a questo punto per l'Italia. Certo, inevitabilmente Conte e Di Maio sono dovuti tornare con prepotenza sulla scena. È ovvio che la Libia per l'Italia ha un peso forse ancora più strategico di quanto non abbia per qualunque altra nazione, soprattutto in Europa. E torno a ricordare, il problema principale per noi non è soltanto l'ENI, ma è l'immigrazione, la bomba sociale che può innescarsi e può diventare per noi ancora una volta non gestibile in termini di flussi migratori. Grande tema, e riflettevo sul fatto che a questo punto, come dire, con il ruolo forte che ottiene Erdogan in Libia, di fatto ottiene le chiavi, per così dire, europee dell'immigrazione, perché non scordiamoci che è esattamente con Erdogan che di fatto con Angela Merkel, ma poi in sostanza tutta l'Europa, firmò un accordo, soldi in cambio del fatto che ti tieni rifugiati sul tuo territorio. E già nelle settimane scorse, come ricorderete, la Turchia ha iniziato a minacciare, ha detto: occhio che qua apriamo i cancelli e liberiamo tutti. Quindi massima attenzione su questo fronte. Oh, ci fa notare un ascoltatore, Alessandro da Monza, dice: la citazione di Minniti non è di Mao ma di Confucio, poi ripresa da Mao. Le questioni più strettamente politiche, poi insomma magari torneremo a fare qualche accenno ai temi esteri, ai temi della Libia, anche al tema dell'Iran, a questo colpo di Trump che qualcuno ha considerato da folle, appunto l'uccisione di Soleimani, con queste prime analisi iniziali qualcuno aveva addirittura scritto un gesto sconsiderato, fatto d'impeto, come è tipica la politica estera di Donald Trump. In realtà sta una serie di effetti, non so quanto previsti, ma insomma oggettivi, perché l'abbattimento dell'aereo ucraino da parte dei missili iraniani, che lo hanno fatto chiaramente per errore, l'ammissione degli iraniani l'abbiamo fatto per errore, sta scatenando delle proteste di piazza che mettono ulteriormente in difficoltà il regime iraniano. Le vicende italiane, no? C'è tutta questa storia che ha a che fare, per chi se la ricorda, la pubblicità, non un pennello grande ma un grande pennello, il pennello cinghiale, ricorderete la pubblicità, per chi ce l'ha in testa, di questo signore, questo in bianchino che circolava con il pennello, un pennello enorme dietro le spalle, no? Per dipingere una parete non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello, e un po' lo ha ricordato Nicola Zingaretti nella sua definizione del nuovo Partito Democratico. Sentiamo. Io vengo da una campagna elettorale in Emilia e in Calabria da alcune ore, fino a ho pranzato in Emilia Romagna. Vinciamo le elezioni e poi il congresso, che sarà un congresso di grande apertura, di grande rinnovamento, per non costruire un nuovo partito, ma un partito nuovo sì, più aperto, più coinvolgente, perché è sempre più chiaro che l'alternativa alla Lega è il Partito Democratico e quanto di nuovo dobbiamo e vogliamo organizzare intorno al PD. Oh, questa cosa del pennello grande, grande pennello, del paragone, insomma, l'aveva tirata fuori Cristina Rocca sull'inchiesta già qualche giorno fa. Insomma, questo PD che cerca, Angelo, viste un po', no, le sardine, tutti i movimenti, tutte queste cose, una sorta di rinnovamento, mi sembra, con una qualche difficoltà, ma forse anche con la volontà, tutto sommato, di raccogliere i pezzi del Movimento 5 Stelle che si stanno spargendo un po' dappertutto, no? Sì, certo. Secondo me il problema del PD è che dovrebbe dire qualcosa di sinistra, cosa che non avviene da qualche anno. Parlano di contenitore, parlano di aggregazioni, di territori da riconquistare, ma non gli senti mai dire qualcosa sui giovani, sulle cose da fare per la gente che soffre, per i pensionati, Zingaretti mi pare che stia lavorando bene, nel senso che l'accordo con i 5 Stelle ha ridato un certo protagonismo al Partito Democratico, che sembrava destinato all'estinzione, però adesso sarebbe il momento di entrare nel merito. Quali sono le ricette del PD per la società del futuro? Nessuno ne parla, mi sembra un partito di gestione, ricorda la vecchia DC Dorotea, ma senza quell'afflato filosofico, ideologico che dovrebbe rappresentarlo, visto che è grossa fetta della sinistra e che anche con questa nuova legge elettorale alle viste lo candida ad essere l'aggregatore della sinistra riformista. Tra l'altro le sardine, abbiamo pubblicato sul Fare Italiani un sondaggio da cui si evince che le sardine portano via voti in modo clamoroso proprio al PD e ai 5 Stelle, quindi erano nate per fermare Salvini e in realtà è una sorta di eterogenesi dei fini, vanno a colpire proprio il Partito Democratico. Esattamente. Quindi un casino. Esattamente, il PD. Non facile la situazione. Allora il traffico, poi andiamo, torniamo da Agnese Pini. Non ce l'abbiamo il traffico? Vabbè. Allora facciamo una cosa, sentiamoci anche Zingaretti sul tema del cambio di nome, perché anche là, no, un po' come diceva Angelo Maria Perrino, diceva, insomma, un po' il tema del contenitore, Sentiamo Zingaretti sul nome del PD. Questo lo decideremo, io non credo che si debba partire né dai nomi né dalle formule organizzative, si deve partire dalle ambizioni, dalla voglia di rinnovare, dalla voglia di cambiare, e questo lo farà il Partito Democratico. Traffico. Insomma, cara Agnese Pini, un governo un po' in navigazione. Anche l'intervista di Conte oggi al Corriere della Sera, che dice: ora la riforma dell'IRPEF, rivedremo le pensioni, un po' il tema di autostrade che resta al centro naturalmente, ma non solo quello. Insomma, un governo in una sorta di navigazione in attesa del voto in Emilia Romagna, tutto sommato, per quanto Conte smentisca, dice è una consultazione locale, però la siamo, L'Emilia Romagna continua a essere ora più che mai davvero una cartina tornasole della tenuta del governo. Se il PD dovesse vincere, se perdere, se Bonaccini non dovesse farcela contro la Borgontoni in Emilia, è ovvio che si aprirebbe una resa dei conti come minimo all'interno della maggioranza, oltre che ovviamente all'interno del Partito Democratico stesso. Questo al di là dei proclami di questi giorni di Zingaretti, questa rigenerazione del partito che di fatto non c'è più stata da quando è passata la cura Renzi, no? Prima col cambio, con il ricambio della leadership, poi con la messa in discussione di tutta una serie di valori del PD fino alla fuoriuscita di Renzi stesso, ecco, i Dem non hanno più fatto un po' di autocoscienza, tra virgolette, dentro il partito per cercare di dargli una connotazione anche politica, anche di valori e di ideali o di direzione verso cui si vuole andare. Il PD è un partito che negli ultimi tempi più che mai ha navigato molto, molto a vista, quindi ecco, inevitabilmente una sconfitta così clamorosa come diventerebbe quella in Emilia Romagna costringerebbe tutti quanti dai fatti a rimettersi in discussione, governo compreso, che la tenuta dei giallorossi possa resistere indenne a una debacle del genere, come potrebbe essere appunto la perdita dell'Emilia Romagna, è direi abbastanza impossibile. Sì, io no, scusa, notavo solamente questo, Agnese, che insomma, per certi versi io concordo con Angelo quando dice c'è un po' questa fissazione sul tema, e parte lo accennavi anche tu, un po' questa fissazione sul tema della forma partito. L'apertura alla società civile, ai movimenti, sono cose che sentiamo, ragazzi, ma non solo nel PD, sono cose che sentiamo da 20-30 anni in maniera quasi ossessiva. Poi, insomma, quando vai a vedere la sostanza, è difficile intercettare tutto questo, no? Gli unici forse che ci sono riusciti davvero sono stati quelli del Movimento 5 Stelle all'inizio, trasformando di fatto società civile in partito o in movimento. D'accordo, infatti, io penso che il PD ci metta l'hardware, ma il software è dei 5 Stelle, nel senso che qualche buona non idea che sta passando arriva dai 5 Stelle, vedi la prescrizione, vedi il reddito di cittadinanza, adesso mi pare oramai si possa affermare stamattina dalle parole di Conte che la licenza in Benetton venga ritirata. Ecco, il PD su tutto questo è alla rincorsa, non ha una linea, non c'è, subisce l'iniziativa dei 5 Stelle, sì. E speriamo che tengano, perché se vengono meno i 5 Stelle anche per il PD si apre una via di solitudine, di vuoto cosmico, di idee. Deve dire qualcosa di sinistra. Agnese, concordi? O magari no, magari invece non deve dire qualcosa di sinistra, deve dire qualcosa e basta sto PD. Ma il PD, l'ossessione della piazza che ricordavi tu, nel PD è un po' endemica, no? Questo tipo di di paura di perdere il controllo della piazza. La piazza che ogni tanto torna a ricordare al PD che cosa deve dire o fare o pensare. Il PD che ha sempre la sensazione di non riuscire a coglierla, a capirla fino in fondo, no? Si parlava di PD, ma le sensazioni erano simili ai tempi dei Girotondi, per esempio, per quanto poi i fenomeni Girotondi e Sardine non si possano in realtà davvero paragonare, sono figli di epoche storiche troppo diverse, di sentimenti troppo diversi. Il PD è costretto ad ascoltare la piazza, ecco, non riesce mai, la sensazione è quello che non riesca mai a gestirla, a confrontarci in maniera virtuosa. Se da un lato ha quasi il timore di appiattircisi sopra, dall'altro tende a ignorarla. E il punto è che dalla piazza, anche dalla piazza delle Sardine, arrivano comunque richieste, non tutte, ma molte, che devono essere percepite, ascoltate dai leader del Partito Democratico, perché è vero che le Sardine tolgono voti al PD, ma se gestite nel modo giusto possono anche frenare un'emorragia o dare un nuovo impulso anche di forza mediatica, di forza popolare a un PD che negli ultimi tempi è risultato un po' appannato. Quanto ai 5 Stelle, la scissione che era paventata nell'aria da mesi dopo l'indebolimento del partito, la crisi all'interno del partito, della leadership di Di Maio, sta avvenendo quello che si poteva un po' paventare, un po' pronosticare, e di fatto i 5 Stelle si stanno dividendo in modo sempre più netto fra chi protende per la linea del capo, del padre politico, sì, Grillo, quindi una fusione col PD, che non, se non è una fusione comunque è un avvicinamento, poco ci manca, insomma, a tappe forzate, e chi si invece fa un passo indietro nettissimo. Sì. Le vostre voci, le vostre voci. Conte, la Libia, 5 Stelle, PD. Mi sembra proprio la parabola della stalla che viene chiusa quando le vacche sono scappate. Vorrei solo far notare una cosa, ma come si fa a dire che Zingaretti sta lavorando bene, che da quando è diventato segretario ha perso 7 regioni e molto probabilmente ne perderà ancora, e qui si continua a enfatizzare una persona del genere? Oh Angelo, ce l'hanno con te, ce l'hanno con te. Ma io dico che sì, certo, Zingaretti ha interrotto però la caduta, la crisi che risale a Renzi. Il PD si è attestato oramai su questo 20%, quel 20%, quella, ecco, roba là. Più o meno regge, e ha ripreso, diciamo, a dialogare, ha ripreso centralità entrando nel governo, mentre io cioè, in mente in la Francia, il Partito Comunista Francese è morto. Ecco, rispetto a quel destino che sembrava segnato, Zingaretti è riuscito a dare un po' di vitalità, questo è indubbio, sì. Ma ho già detto che rispondo al vostro ascoltatore che il PD è un hardware senza software. Deve dire qualcosa di sinistra, sì. Quindi siamo sostanzialmente d'accordo. Non sa nemmeno esattamente come chiarire a Zingaretti che hardware metterò, almeno lo deciderà nei prossimi giorni, che hardware avere. Oh, poi c'è tutta questa scontro, questa polemica che è emersa nel fine settimana sulla neo ministra dell'istruzione. Ha giurato venerdì, tra l'altro avremo ospite oggi con Maria Latella alle 8:30, l'altro pezzo di questo ministero, il ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi. Cosa è successo? Che il quotidiano La Repubblica ha tirato fuori un pezzo nel quale si diceva che nelle prime tre pagine delle 41 complessive della tesi con la quale, della relazione con la quale Azzolina ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento, ci sono delle sostanziali copiature da testi senza virgolettati e senza citazioni. Solo le tre prime pagine sono pubblicamente disponibili su internet. C'è stato un attacco molto duro, ovviamente, del centrodestra, dicendo una ministra che copia non può far il un ministro che copia non può fare il ministro dell'istruzione. E Lazzolina ha replicato così: non fatevi prendere in giro, non è né una tesi di laurea, né plagio, né nulla, e ho letto tantissime sciocchezze in queste ore, ma d'altra parte non mi stupisce mica che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una tesi di fine relazione di un tirocinio. SIS non ha mai studiato in vita sua, sarebbe strano se le distinguesse. L'unica cosa che mi dispiace è dover parlare qui da Auschwitz. D'altra parte l'anno scorso il ministro leghista Bussetti non si è presentato, era a maggior ragione, era importante che io fossi qui oggi. la ministra dell'istruzione Azzolina, dunque, che combatte su questa cosa. Ci è sfuggito prima, non abbiamo fatto sentire, e è giusto sentire, una voce di opposizione sulla Libia. Non male la Meloni, sentiamola, va. Il problema intanto è che uno per fare queste cose deve avere un governo, e deve avere un governo che non faccia le cose a favore di telecamera, perché il presidente del Consiglio Conte, dopo che l'Italia non ha toccato palla, che si pensa di fare c'è posta per te con Sarraj e Haftar, che li chiama uno all'insaputa dell'altro pensando che poi apre la busta e al Sarraj gli dice: vuoi lo faccio entrare Haftar? È una cosa che bisogna essere completamente pazzi, ma nessun presidente di un consiglio di una potenza come l'Italia farebbe una cosa del genere, soltanto diciamo per una questione di comunicazione interna. E vabbè, Meloni, su, c'è posta per te. Oh, intanto Maria De Filippi ha messo a segno, risultatone, oltre il 30% di ascolti. Grazie Angelo Perrino, grazie Agnese Pini, ci risentiamo alla prossima, GR24, a dopo con la rassegna stampa.